Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio, ultima puntata della settimana, e naturalmente ci lasciamo anche in questa settimana con il tema dei mutui, come abbiamo fatto anche la settimana scorsa, un tema sul quale non spegneremo probabilmente mai il nostro faro. Ormai, come dicevamo anche nelle anticipazioni del giornale radio, le domande che stanno continuando ad arrivare al nostro indirizzo di posta elettronica hanno un unico tema, un unico quesito: il tetto del 4% che il governo ha fissato, tra virgolette, forse non è il termine giusto, sui tassi di interesse che paghiamo sul nostro mutuo a tasso variabile. E c'è ancora un po' di chiarezza da fare intorno a questa misura e soprattutto intorno alle modalità con cui le banche stanno adeguandosi a questo provvedimento. I tassi sono in calo costante, per molti mutuatari gli interessi sopra il 4% cominciano ad essere solo un ricordo, c'è però chi paga ancora un tasso sopra questa soglia ed è convinto che il governo paghi, come promesso nel decreto anticrisi che ormai è in via di approvazione alla Camera, l'eccedenza sopra questo livello. Però chi va in banca a chiedere chiarimenti si sente rispondere: non sappiamo niente, dobbiamo ricevere disposizioni. Oggi noi ne abbiamo convocate due, sentiremo che risposte stanno dando ai clienti e come intendono adeguarsi alla misura del governo, come mai c'è questo ritardo e ci sono ancora delle risposte evasive alla clientela. I nostri interlocutori di questa mattina, come sempre, Maximilian Cellini, Plus 24 del Sole 24 Ore, questa mattina in collegamento telefonico con noi. Maximilian, grazie e buona giornata. Giornata anche a voi. Abbiamo anche Luciano Ambrosone, responsabile dell'ufficio finanziamenti per privati del gruppo Intesa San Paolo. Dottor Ambrosone, benvenuto. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ben ritrovato, anzi, a Salva Danaio, e tra un po' ci collegheremo anche con Banca Sella. Allora, prima di andare subito ad esplorare questo argomento, perché se l'indirizzo di posta elettronica di Salva Danaio su questo tema è costantemente intasato, non vi dico che cosa non sta già accadendo ai nostri centralini, direi però di dare anche un'occhiata alla borsa, perché anche questo è un tema interessante in questi giorni, di nuovo sull'otto volante. Dall'inizio dell'anno, che era cominciato così bene per i mercati con un bel recupero, c'è ancora la massima incertezza che è ritornata a fare capolino questa settimana a causa ancora una volta delle forti difficoltà che stanno travolgendo il settore bancario. Questa settimana, lo abbiamo ricordato, è toccato al settore bancario britannico e di conseguenza anche tutte le altre società europee hanno pagato questa situazione. Questa mattina Parigi -1,86%, Francoforte -1,94%, Londra -1,48%, oltre alle banche ad essere piuttosto coinvolte nel vortice delle vendite, questa mattina ci sono anche le società automobilistiche ancora, ma stamattina ci sono finite anche le società assicurative, i gruppi assicurativi. Milano sta perdendo l'1,87%, c'è un pochino un cenno di miglioramento, poco fa gli indici sono arrivati a perdere anche fra 2 punti e 2,5 punti. Stamattina Piazza Affari, titoli peggiori: Fondiaria -9,60%, Fiat dopo il crollo di ieri anche oggi -7,30%, Seat -7%, Fastweb -7%, L'Espresso -6,84%, -5,41% per la ex autostrada, Atlantia, Lottomatica -5%, Impregilo -4,5 punti, -4% per Saipem e Bulgari. Abbiamo adesso due titoli positivi a Milano. In mattinata, in certi frangenti, non ce n'era neanche uno: Finmeccanica +0,25%, Snam Rete Gas +0,12%, poi alcuni titoli che invece perdono un po' meno degli altri: Terna -0,2%, Mediolanum -0,26%. Ha chiuso male anche Wall Street ieri sera, ha chiuso male anche l'Asia questa mattina. Il Nikkei a Tokyo ha registrato una flessione del 3,81%, insomma anche oggi dovremo presumibilmente archiviare una settimana di nuovo piuttosto pesante per i mercati. E visto che di mutui parliamo, e visto che i mutui a tasso variabile sono agganciati all'Euribor, e visto che l'Euribor continua a scendere, a che livello è arrivato oggi? Stamattina la scadenza a 3 mesi è stata fissata al 2,19%, il tasso a un mese è all'1,86%, continua a scendere sotto il 2%, pensate che questo tasso interbancario non c'era mai finito, e quindi insomma anche questa è una tendenza da prendere in considerazione questa mattina. Allora, lasciamo la borsa, andiamo dunque subito al cuore del tema di oggi, ritorniamo sui mutui e sentiamo quali sono le novità degli ultimi giorni. Quando ad ottobre, in piena crisi finanziaria, le banche mostravano la propria diffidenza reciproca prestandosi denaro a tassi da record, nessuno avrebbe immaginato che solo 3 mesi più tardi lo scenario sarebbe radicalmente cambiato. Le successive iniezioni di liquidità dalla Banca Centrale Europea e gli interventi congiunti degli Stati a sostegno del sistema del credito hanno portato il tasso interbancario Euribor a livelli mai visti. È sceso ieri per la prima volta sotto il 2%, all'1,91% l'Euribor ad un mese, e quello a 3 mesi segue a quota 2,25%. Il popolo dei mutui naturalmente festeggia, anche perché il presidente della BCE, Jean-Claude Trichet, non ha escluso un nuovo taglio del costo del denaro a marzo e intanto esorta le banche a fare la loro parte. We are looking very, very carefully to the Euribor in particular. Stiamo osservando molto attentamente l'andamento dell'Euribor e il fatto che ci sia stata una corrispondenza tra le nostre decisioni di politica monetaria e i tassi effettivamente applicati sul mercato. Da questo punto di vista, devo dire che abbiamo monitorato nelle ultime settimane l'Euribor a 3 mesi e posso affermare che si sta andando nella giusta direzione. Abbiamo visto un progressivo calo dell'Euribor ad un livello vicino al tasso di interesse da noi appena deciso. Ma se da un lato vedo segnali di miglioramento, occorre rimanere molto vigili perché per un certo numero di ragioni notiamo delle esitazioni tra le banche stesse. Invitiamo dunque le banche a tradurre effettivamente i ribassi dei tassi che noi decidiamo. In questo ambito non tutto è stato fatto, ma ripeto, per ciò che riguarda l'Euribor stiamo monitorando molto attentamente. Sono stati compiuti molti progressi che spero continueranno. Ciò che ancora non convince è il ritardo con cui il calo dei tassi si riversa sulle rate dei mutuatari. Per i nuovi mutui, la colpa è degli spread. Oggi il margine di guadagno richiesto dalle banche viaggia tra l'1 e il 2% e per i nuovi mutui indicizzati al tasso BCE anche sopra questa soglia. Per i mutui in essere, invece, si tratta solo di aspettare. Se gli adeguamenti sono lenti, lo sconto arriverà. Intanto a ridurre la rata ci pensa il governo. Il tetto del 4% è già in essere dal 1 gennaio e entro fine febbraio tutte le banche dovranno adeguarsi. Il rimborso dovrebbe essere automatico, ma finché non saranno chiare le modalità di attuazione del decreto, l'unica cosa da fare è attendere pazientemente. Attendiamo pazientemente, però intanto qualche risposta andiamo a cercarla fra gli interlocutori bancari. Prima però comincio la mia consueta conversazione su questo argomento con il collega Maximilian Ancellino di Plus24 del Sole 24 Ore, ricordandovi anche di porci i vostri quesiti all'800 24 0024. Maximilian, dato quanto stanno scendendo i tassi interbancari, fra un po', in realtà su questo punto scherzavo prima anche a microfoni spenti prima della trasmissione con il dottor Ambrosone del gruppo Intesa San Paolo, fra un po' pagheremo solo lo spread, magari andassimo verso questa tendenza. Maximilian. Sì, magari, in realtà sì, scenderanno, non voglio fare quello che insomma vede sempre, che è un po' pessimista, ma scenderanno, a un certo punto saranno ovviamente destinati a risalire. Siamo già sui minimi, non so da quanto tempo, oggi vedo ancora un po' meno Euribor a un mese, a 3 mesi rispetto a quello che diceva la scheda, che ovviamente... Sì, sì, infatti io l'ho dato in apertura, ho dato le soglie di questa mattina, sì. Esatto, sono ancora più basse, stanno scendendo, a un certo punto arriveranno a quello che è, lo chiameremo un pavimento, insomma, e poi cominceranno probabilmente a risalire. Quale sia questo pavimento in questo momento non è dato, è prevedibile, dietro. Certo. I mercati pensano che possa essere qualcosa, parlo dell'Euribor a 3 mesi, qualcosa sotto il 2%, che possa essere l'1,7%, che non sarebbe già male. Molto dipenderà da cosa farà la Banca Centrale Europea a marzo, ma dipenderà anche da un altro elemento importante, da come reagirà il mercato interbancario. Qui da questo punto di vista c'è stata un'innovazione importante. 2 giorni fa la Banca Centrale Europea ha abbassato ulteriormente il tasso al quale remunera i conti, il denaro che le banche lasciano. I depositi bancari. Esatto, i depositi bancari. L'ho abbassato fino all'1% e si è visto subito che le banche, visto che non ci prendono quasi più niente a lasciare il denaro in deposito alla Banca Centrale Europea, hanno abbassato moltissimo i loro depositi. Quindi hanno tornano a prestarsi denaro tra di loro? Esatto, questo è molto importante, questo potrà influire sull'Euribor, come già influisce sugli altri tassi, per esempio sui tassi inglesi e americani, l'Euribor, il corrispettivo dell'Euribor, nei giorni scorsi ha già cominciato a invertire leggermente la tendenza. Questo prima o poi si vedrà anche in Europa. Allora, questa è la tendenza virtuosa di questo periodo, dice Maximilian. Prima o poi l'Euribor anche troverà un pavimento dal quale poi ripartirà. Questa è la natura del tasso variabile, se associamo il concetto dell'Euribor a quello del mutuo. Detto questo, però, questo livello dei tassi che continua ad abbassarsi ha portato ovviamente un gran risparmio nelle rate di molte famiglie, quello che ci chiediamo è, a questo punto, quante famiglie che hanno il mutuo a tasso variabile, che magari non lo hanno rinegoziato oppure lo hanno rinegoziato, continuano a pagare un tasso di interesse al di sopra del 4%, visto che questa soglia fissata dal governo è comprensiva dello spread, cioè della remunerazione che la banca chiede appunto per praticare appunto queste condizioni per concedere il finanziamento. Vi volevo leggere, prima di cominciare a coinvolgere i miei interlocutori bancari, una mail che ci è arrivata e che sicuramente sintetizza quello che si stanno chiedendo in molti ascoltatori. Un ascoltatore che ci ha scritto, si chiama Daniele, ci ha scritto da Carpi in provincia di Modena. Allora, questa mattina ho telefonato alla mia banca, poi magari vi dico anche quale è, presso la quale ho il mio mutuo a tasso variabile, per avere informazioni in merito al famigerato rimborso che il governo darebbe alle banche, che poi dovrebbe riversare sui propri clienti per l'eccedente il 4% degli interessi di un mutuo appunto a tasso variabile. Io a gennaio ho pagato l'ultima rata trimestrale con un tasso al 6,6%, comprensivo di spread. La banca mi ha detto che non mi rimborserà un bel niente perché non ha ricevuto nulla dal governo in merito. Sono senza parole. Mi può dare ragguagli in merito? Allora, sicuramente questa è la confusione intorno alla quale viaggia un bel po' della nostra platea appunto che ci ascolta, perché forse è vero che effettivamente ancora il governo non ha stabilito con precisione la modalità con cui teoricamente la banca dovrebbe rimborsare l'eccedenza rispetto al 4%. Luciano Ambrosone, Intesa San Paolo, voi che cosa state rispondendo alla vostra clientela che vi chiede lumi intorno a questa questione? Ma allora, la legge è chiara nel dire che questo beneficio, questa agevolazione di tasso decorre dalle rate scadenti successivamente al 1° di gennaio 2009, su questo non c'è dubbio. C'è qualche problema in più di natura interpretativa su quella che è la corretta applicazione di questo di questa agevolazione, il cui costo peraltro è posto a carico dello Stato, per cui noi dobbiamo semplicemente poi applicarla come banche, e che deriva dal fatto che coloro che hanno diritto a questa agevolazione sono coloro che hanno un mutuo erogato entro il 31 ottobre 2008, contratto per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, mutuo a tasso non fisso. Ora, cosa si intende per abitazione principale e come possiamo andare a individuare correttamente i clienti che hanno diritto a questa agevolazione? Questo è un tema delicato, considerando appunto che il costo è posto a carico dello Stato attraverso poi l'attribuzione di un credito d'imposta per la banca, e noi non possiamo certo applicarlo senza avere la certezza di rispettare appieno la norma di legge. Da questo punto di vista evidenzio che il disegno di legge passato alla Camera, il disegno di legge di conversione del decreto legge anticrisi, ha stabilito che ci sarà uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per definire la modalità per comunicare alle banche i contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per applicare le disposizioni. Ciò che è certo è che quando verranno applicate, quindi non appena avremo questi dati, questi nomi, ci saranno i conguagli sulle rate scadenti dal 1° gennaio in avanti, così come prevede la legge. Quindi, qualora l'Agenzia delle Entrate dovesse emanare questo provvedimento a breve, le banche si impegnano immediatamente ad adeguarsi alla disciplina con cui dovranno individuare i clienti che hanno diritto a questa restituzione, per cui potrebbe essere questione solamente di poche settimane. Alessandra Pissinis, responsabile commerciale crediti del gruppo Banca Sella, si riconosce in questa ricostruzione che ha fatto Luciano Ambrosone per quello che riguarda Intesa San Paolo, ma ovviamente ovviamente poi le modalità di adeguamento riguarderanno un po' tutti, non credo che ci saranno margini per agire in maniera autonoma. Anche per voi a questo punto l'idea è quella di aspettare il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate? Sì, buongiorno. Buongiorno. In linea con quanto diceva il collega di Intesa San Paolo, ovviamente siamo in attesa che avvenuta la conversione del decreto legge e emanate le disposizioni dell'Agenzia delle Entrate di individuare la lista dei clienti che possono essere oggetto, saranno ovviamente beneficiari di quanto disposto dalla normativa e immediatamente con i tempi tecnici che tra l'altro il Ministero delle Finanze ha consentito essere allungati, quindi i tempi possono essere fino alla fine di febbraio per effettuare i conguagli, procederemo con erogare ai clienti quanto gli spetta, ottenendo poi ovviamente il beneficio del credito d'imposta, quindi assolutamente in linea. Ecco, volevo ritornare a Maximilian Cellino. Le banche aspettano il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Mi chiedo che cosa c'entri, ti faccio una domanda proprio da Alice nel Paese delle Meraviglie, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, nel senso comunque il rapporto è fissato tra banca e cliente, la banca che eroga il mutuo e la banca che sa che tasso di interesse ha applicato al momento dell'erogazione del finanziamento e quindi conosce molto bene quello che è successo al cliente in questi 2-3 anni. Maximilian, puoi chiarirci questo punto? Ma in realtà è un punto un po' discusso, perché Ambrosone prima, che io sentivo un po' a fatica, ma mi sembrava che facesse riferimento al cambiamento che è avvenuto dello status dell'abitazione teoricamente, no? Cioè, no, il cambiamento sì, appunto, che è avvenuto con il passaggio alla Camera, il primo passaggio alla Camera del decreto. È stato inserito un punto appunto in merito all'Agenzia delle Entrate che non era a mio parere molto chiaro, e a quanto ho capito da Ambrosone si aspettano che proprio con decreto dell'Agenzia delle Entrate gli venga indicato quali sono le persone che hanno dei mutui che possono usufruire appunto di questo tetto del 4%. Allora in questo caso avrebbe senso aspettare l'Agenzia delle Entrate. Era un punto abbastanza mi chiedo io, appunto, controverso. Non lo sa la banca a quali clienti ha erogato il mutuo a tasso variabile? In teoria. Qualcosa bisogna ancora, qualche dubbio bisogna ancora levarselo. Per esempio, ci sono moltissimi mutui che sono a tasso misto che ancora non si è capito se rientrano o meno. A mio parere, a parere di molti, devono rientrare nel tetto del 4%. Lo abbiamo infatti detto in tutte le puntate, l'abbiamo detto anche questo, molte volte, però nessuno l'ha mai detto con certezza. Soltanto una circolare ministeriale ha detto con certezza che rientrano i mutui che sono stati cartolarizzati. Già questo è importante, perché infatti la gran parte, moltissimi mutui sono stati cartolarizzati. Però ecco, sui mutui a tasso misto non si è detto niente. Su come su quale parametro viene preso per i mutui che per esempio sono stati già oggetto di surroga, perché io ricordo una cosa: il tetto del 4%, e vale la pena ricordarlo ancora un'altra volta, non vale per tutti, ma vale soltanto per quelli che come primo tasso hanno pagato un tasso inferiore o uguale al 4%. Per quelli che alla prima rata hanno pagato per esempio il 5,5%, quello diventa il tetto oltre il quale interviene lo Stato. E quindi ci sono ulteriori complicazioni se per esempio una persona ha fatto un mutuo che come prima rata ha pagato il 5,5%, successivamente ha fatto una surroga oppure addirittura una sostituzione. Se avesse fatto una sostituzione sarebbe un nuovo mutuo. Ma sono dei casi un po' da risolvere. Infatti, allora, c'è anche un'altra domanda che alcuni ascoltatori si fanno, la faccio fare a Mario da Milano, il nostro primo intervento di questa mattina da parte degli ascoltatori. Mario, benvenuto, rapidissimo, grazie. Buongiorno e grazie di avermi richiamato. Ma in parte mi avete già un po' risposto, nel senso che da quello che ho capito noi dobbiamo solo aspettare e sarà la banca a comunicarci dopo tutto il conguaglio, cioè noi non dobbiamo fare a farlo, niente, certo, no? Mario, speriamo che sia così, ci mancherebbe altro che ci dobbiamo mettere a fare i calcoli sul tasso di interesse che paghiamo da gennaio in avanti, e se ci mancherebbe altro che spetti a noi fare la telefonata alla banca e a invitarla appunto ad applicarci effettivamente la normativa. Però ce lo facciamo poi chiarire dai diretti interessati. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Parliamo ancora dei mutui ed eravamo rimasti al quesito posto da un ascoltatore di Milano a cui tra l'altro avevamo anche parzialmente risposto. Lui crede di rientrare nella questione del 4%, vale a dire pensa che la sua rata restituita alla banca in gennaio abbia ancora un tasso di interesse superiore a questo livello, per cui chiedeva se il rimborso bancario dovesse avvenire secondo condizioni di automatismo. Luciano Ambrosoni, Intesa San Paolo. Mario non ha citato la banca, però in base a quello che lei ci ha detto inizialmente, teoricamente non appena il contorno della questione si sarà completamente chiarito, non c'è nessuna iniziativa individuale che in qualità di mutuatari dobbiamo intraprendere verso la banca, giusto? Sì, sì, è così, esatto. Con questo provvedimento del direttore delle agenzie delle entrate sarà definita diciamo, la lista dei contribuenti che hanno diritto a questa agevolazione. Ecco, ci può spiegare magari anche lei la questione per cui è importante l'intervento dell'Agenzia delle Entrate in questa questione? Perché dicevo prima con Maximilian Cellino, io sottoscrivo comunque il mio contratto di finanziamento con la banca, quindi la banca sa quello che succede al mio mutuo. Perché c'è l'intervento dell'Agenzia delle Entrate? Ma in realtà è vero che la banca sa che al momento dell'erogazione di un mutuo, questo è il contratto per l'acquisto o per la costruzione o per la ristrutturazione dell'abitazione principale, ma non può evidentemente sapere se oggi ricorrono ancora quei requisiti di abitazione principale che erano stati accertati al momento dell'erogazione del mutuo. Chi ha acquistato una seconda casa, ad esempio, e che poi invece è stata trasformata dopo la vendita successiva di un'altra casa, è stata trasformata in abitazione principale. E beh, in questo caso è un'informazione che la banca non può non avere. Ottenere. Al contrario, colui che ha comprato la sua prima casa per un certo periodo di tempo, l'ha mantenuta come prima casa e ha avuto anche diritto al beneficio fiscale sugli interessi, dopo ne ha comprato un'altra mantenendone la proprietà, semmai affittandola ad esempio. In questo caso il fatto di applicare questa agevolazione, che diventa per la banca un credito d'imposta, ha un risvolto di grande delicatezza. Certo. Non possiamo permetterci di chiedere allo Stato un credito d'imposta laddove stiamo applicando in maniera sbagliata la legge. No, insomma, io l'ho voluta far chiarire anche questa cosa in modo tale che diamo anche spiegazione a chi ritiene che siamo di fronte alla solita lentezza bancaria nell'adeguarsi alle normative, come abbiamo assistito anche negli ultimi anni alla questione della portabilità, l'estinzione del mutuo con l'abbattimento delle penali e tutte le questioni insomma che si sono succedute dal punto di vista legislativo. Qua siamo di fronte ad una questione un po' diversa, di fatto speriamo che entro un mese insomma ci si possa mettere a posto in modo tale da riconoscere e da restituire a quei mutuatari che hanno pagato una rata al di sopra appunto del 4% come tasso di interesse questa eccedenza, di cui poi verso la banca si fa carico lo Stato. Sentiamo Donatella da Rimini. Buongiorno Donatella. Buongiorno. La mia richiesta è questa: io ho un mutuo del 2002 a tasso variabile, sì. E ho fatto la richiesta entro il 30 novembre di poter andare al 6%, la richiesta era se potevo avere l'agevolazione del 4%. Mi scusi, perché ha fatto la richiesta di andare al 6%? Non capisco. Allora, c'era la richiesta della convenzione con la convenzione ABI, Ministero dell'Economia, sì. Per riportare i tassi ai livelli del 2006. Ai livelli del 2006, della media del 2006. Sì. Due o tre giorni dopo è uscito il decreto legge del 4%. Quindi, avendo sottoscritto questo mutuo nel 2002... Inizialmente era una casa di prima casa abitazione che poi, trasferendomi per motivi di lavoro, ho affittato. Nell'ambito dell'agevolazione 4%, che sarà automatica, rientra questa cosa? La banca oggi mi chiede, dice, se vuoi confermare questa richiesta del 30 novembre dobbiamo sviluppare insomma le ultime formalità. Donatella, questo è un caso sicuramente da manuale, dobbiamo dar ragione allora alle banche, che evidentemente ogni caso è molto complicato, le situazioni cambiano, la prima casa diventa una casa data in affitto e quant'altro, non lo so, magari io sento Maximilian Cellino, prima poi magari anche la Piscinis di Banca Sella. Maximilian, che cosa ti suggerisce questo caso di Donatella? Allora, sul discorso prima casa, tra l'altro della convenzione... prima casa, non posso dirvi molto e questo perché... è una cosa che dovremmo capire e dovrà capire soprattutto la signora. Sul discorso convenzione invece posso darle un aiuto, perché il decreto a suo tempo, il decreto anticrisi, stabilisce con chiarezza che i mutui che hanno richiesto l'applicazione della convenzione ABI governo, quella che riportava la rata fissava anzi la rata a livello medio del 2006, questi mutui qui rientrano in pieno nella, nel decreto anticrisi, però con una particolarità, cioè che in realtà la rata dovrebbe rimanere fissata a livello del, del medio del, del 2006, e non gli interessi dovrebbero venire calcolati secondo il tetto del 4%, e questo dovrebbe andare a non gravare il conto di finanziamento che si crea contemporaneamente accanto. Veniva acceso nel momento in cui aderiva la convenzione. Questo in teoria, nella pratica il discorso è ancora più complicato, perché in realtà poi i tassi sono scesi così tanto, come stiamo dicendo ormai da un certo tempo, che è molto probabile che già fin dalle prime rate chi ha aderito a quella convenzione pagherà degli interessi ben inferiori a quelli del livello del 2006. E quindi non si crea il conto accessorio, esatto. Io, quasi inutile l'adesione alla convenzione. No, tra l'altro... Dico quasi, perché ovviamente questo il tetto, le rate basse, il tetto del 4% valgono per il 2009, la convenzione vale fino alla fine del mutuo, certo. Quindi si stabilisce un certo tetto alla rata. Alla rata, quindi, che vale anche da partire a continuare, appunto, che vale anche per il prossimo anno e tutti gli anni successivi. No, quello che mi stavo chiedendo invece, sentendo il caso di Donatella, è che la banca, siccome per chi voleva aderire alla convenzione ABI, Ministero dell'Economia aveva tempo fino alle 30 novembre, la prima rata utile per vedere il beneficio sarebbe stata quella di gennaio, mi chiedo come mai a fine gennaio la banca gli abbia detto sbrigati, così cerchiamo di capire se partiamo con l'applicazione della convenzione o vediamo se ci dobbiamo applicare il 4%. Non mi pare un atteggiamento molto chiaro questo. Alessandra Pissinis, Banca Sella, o forse ho capito male io quello che ci ha chiesto la nostra ascoltatrice di Rimini. Sì, infatti era questa la domanda, cioè la comprensione di questo sbrigati, perché l'individuazione dei requisiti sia per il decreto 193 sia per il decreto legge in corso, questo col tetto del 4%, sono chiari con riguardo all'identificazione dei soggetti. Quindi se esiste il requisito dell'abitazione principale al primo di gennaio del 2009, il tetto del 4% o del massimo del tasso di stipula, così come stabilito in modo chiaro dal decreto legge, se persistono, appunto, sono il mutuo rientra all'interno del decreto legge 185, con la precisazione del fatto che questo requisito deve essere registrato altrettanto dall'Agenzia delle Entrate, la quale ci garantirà, tra virgolette, che il cliente può usufruire di questo beneficio. Quindi, insomma, ecco, il tema per Donatella è solamente capire come deve essere gestita questa questione del fatto che dalla sua prima casa lei è uscita, l'ha data in affitto, per motivi di lavoro si è spostata, quindi come gestire la questione, come dire, dal punto di vista fiscale. Per il resto io non credo che degli altri punti Donatella debba interessarsi. Nicola da Milano ci pone invece un'altra questione, nel merito della quale il decreto anticrisi pure è entrato. Nicola, buongiorno. Buongiorno. Senta, io prima di tutto vi ringrazio per la consulenza. Poi volevo chiedere tre domande veloci. Allora, il tasso della Banca Europea è a facoltà della banca o... Io volevo non legarmi all'Euribor, ma volevo legare il mio mutuo al tasso europeo. Tasso BC. Poi il mio mutuo viene rivisto ogni 6 mesi, è penalizzante rispetto a un mese o a 3 mesi. E poi per quanto riguarda il 4%, se il governo mi viene incontro, ma viene fino alla durata del mio mutuo? Grazie. No Nicola, allora, tra l'altro tutti questi aspetti, non tutti, sul tasso BCE non ci siamo ancora entrati. Parto dall'ultima, Maximilia, magari aiutami tu rapidamente, ha fatto delle domande rapide, speriamo di rispondere altrettanto rapidamente. Dall'ultima ecco, il tetto vale per un anno. Per il 2009. Poi possiamo anche dire qualcosa sul discorso del tasso BCE. Aspettiamo un attimo magari ad affrontarlo quello. L'Euribor a 6 mesi, questo è un aspetto fondamentale che riguarda molti ascoltatori che dalla riduzione dei tassi non hanno ancora trovato nessun beneficio pratico nella loro rata. Maximilia, magari possiamo chiarire in un minuto questo punto. Non è soltanto l'Euribor a 6 mesi, ma in tutto il meccanismo che sta dietro la determinazione della rata. Ovviamente ci sono dei mutui che calcolano il tasso di interesse prendendo come parametro l'Euribor, per esempio, del giorno precedente, del giorno stesso della rata, o magari del giorno precedente. Ce ne sono altri invece che prendono invece il parametro lo prendono prendono quello dei mesi precedenti, lo stabiliscono per esempio una media trimestrale degli ultimi mesi precedenti o addirittura una media semestrale e poi magari lasciano il tasso invariato. Questo magari si può fare un esempio ed è anche il motivo per cui nonostante i tassi siano scesi, adesso li vediamo al 2%, per moltissimi, specialmente quelli che hanno spread elevati, il tetto del 4% avrà comunque una certa importanza, perché mettiamoci, sono delle persone che pagano le rate adesso a gennaio su Euribor stabiliti magari a ottobre, magari a giugno, quando erano ancora al 5%. Aspetta un attimo Maximilian, infatti voglio sentire Gianni da Bologna se mi promette di raccontarci il suo caso in 30 secondi. Gianni, questo è quello che è accaduto a lei teoricamente, lei ancora non ha visto nessuna riduzione della sua rata? Esattamente. Io non ho visto nessuna riduzione, ho capito in parte perché adesso vi sto seguendo in diretta dal telefonino, però ho capito in parte quello che ha detto il signor Cellino, perché non capisco però perché deve cambiare il criterio di valutazione, nel senso che io l'ho fatto quando era il tasso al 2%, l'ho visto salire ai massimi e adesso che è sceso non lo vedo scendere. Però magari Gianni l'incremento della sua rata è avvenuta in tempi più ritardati rispetto a quello che stava accadendo ad altri sottoscrittori di mutui che magari avevano il mutuo agganciato all'Euribor da una scadenza più breve, questo non l'ha notato? Allora, questo è vero, sì. Ecco, e quindi allora praticamente tutto il meccanismo al contrario si verificherà con la stessa dinamica. Allora, Luciano Ambrosone, Gruppo Intesa San Paolo, ci aiuta a ritornare sul caso dell'ascoltatore che abbiamo sentito poco fa, Gianni da Bologna, a parte il mutuo indicizzato all'Euribor a 6 mesi che quindi non riesce ancora a vedere i benefici della riduzione dei tassi, e poi magari se ci aiuta anche ad entrare nella questione del tasso BCE. Banca Intesa San Paolo sta adeguando la sua offerta, sta predisponendo mutui agganciati al tasso base della Banca Centrale Europea? Sì, allora... Solitamente ci deve essere una correlazione tra la periodicità dell'Euribor, 1, 3, 6 mesi, e la variazione periodica delle rate. Per cui in realtà cosa succede? Che se il contratto di mutuo indicizzato all'Euribor un mese, ogni mese viene rilevato appunto questo parametro e cambia la rata, se è invece indicizzato l'Euribor 3 mesi, questo viene rilevato ogni 3 mesi e per 3 mesi la rata resta la stessa e ogni 3 mesi cambia. È chiaro, come diceva lei prima, se i tassi salgono uno ha una maggiore stabilità, cioè vede la rata aumentare dopo 3 mesi e non in maniera così puntuale. Quella 6 mesi è ancora più avanti, certo. Esatto. Per quanto riguarda invece il discorso del tasso BCE, sempre il decreto anticrisi prevede che dal 1 gennaio le banche offrano alla clientela anche mutui indicizzati al tasso della BCE, quello che oggi è il 2%, e prevede anche che il tasso complessivo applicato a questi contratti deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione. Ecco, perché il timore per queste nuove formule è che gli spread applicati dalle banche siano un po' alti. In realtà, da quello che abbiamo potuto vedere dall'offerta che già circola sul mercato, effettivamente i margini chiesti dalla banca sono un po' più alti del mercato, 1,5 punti almeno. Voi come intendete muovervi, insomma? Allora, noi dal 1 gennaio abbiamo questa offerta. In realtà c'è un tema molto delicato sull'interpretazione di questo concetto di allineamento delle condizioni, no? Ci possono essere vari tipi di interpretazione. Cosa significa tasso in linea? Al momento della domanda di mutuo? Però se così fosse, lei può capire che coloro che hanno fatto una domanda di mutuo il 1 gennaio richiedendo un tasso indicizzato BCE, oggi non avrebbero più un allineamento, al momento dell'erogazione del mutuo non sarebbe più allineato. Allora l'equivalenza potremmo dire che invece dovrebbe essere quella del momento dell'erogazione del mutuo, ma allora non saremo trasparenti nei confronti dei clienti che nel momento in cui firmano una domanda di mutuo non sanno quello che sarà lo spread che gli sarà applicato. Era tanto anche per dire, dottor Ambrosone, a chi già è un po' attirato dall'idea e stuzzicato dall'idea di passare dal mutuo che ha già magari la nuova offerta commerciale della propria banca al mutuo a tasso BCE, attenzione, perché magari facciamo un attimo assestare anche, no? L'offerta che è possibile praticare in questo momento, quindi non buttiamoci subito verso questa nuova possibilità, così mi viene in mente di suggerire. Ambrosone. Io credo che bisogna tener conto che noi siamo in una situazione molto particolare di mercato e che è evidente che l'attuale congiuntura dei tassi non può essere considerata stabile. Normale, mi permetta questo termine. Appena gli effetti della crisi economica cominceranno ad affievolirsi, evidentemente noi ci attendiamo una politica finalizzata a mantenere sotto controllo l'inflazione. Non dimentichiamoci che i continui aumenti che ci sono stati ancora nel corso del 2008, nonostante sullo sfondo già si profilava una situazione di crisi economica imminente. Per cui bisogna effettivamente in una fase delicata come questa rendersi conto che una valutazione complessiva sulla bontà di una scelta finanziaria, ad esempio anche tra fisso e variabile, Anche. Non può essere fatta su considerazioni di breve durata. Infatti, Claudio da Cuneo. Buongiorno. Sì, abbiamo già esaurito il suo argomento perché ho visto che lei aveva una domanda sul punto che abbiamo appena toccato. Sì, era appunto sul tasso BCE, sul tasso Euribor, il fatto che avendo chiesto un preventivo a dicembre la banca mi ha fatto uno spread, chiedendo un nuovo preventivo a gennaio in base al tasso BCE mi ha detto che lo spread sarebbe però aumentato. Volevo sapere se questo era corretto oppure no. Se è corretto o no non lo sappiamo, di fatto è un po' quello che stanno facendo adesso gli istituti di credito. Maximilian Cellino. Sì, è corretto. Ovviamente la banca può scegliere come in realtà che ci sia un tasso maggiore sul mutuo BCE rispetto al tasso Euribor è abbastanza corretto, perché le banche bene o male si finanziano a quello che è il tasso Euribor. Il tasso BCE, l'abbiamo detto più volte, è un tasso ufficiale ma non è un tasso di mercato. Allora se uno, perché tutti vogliono fare un mutuo a tasso BCE? Perché è più stabile, qualcuno lo chiama anche semifisso, è anche un pochino più trasparente e quindi in teoria è un vantaggio per il mutuatario. Sentiamo Banca Sella. Maximilian, aspetta un attimo, sentiamo che cosa ha intenzione di fare, se anche in questo caso questa banca sta predisponendo l'offerta e soprattutto che remunerazione ha intenzione di chiedere alla clientela attratta da questa stabilità. Alessandra Pissini. La nostra offerta dal 1 di gennaio, in linea con quanto previsto dal decreto, è stata integrata per tutti i prodotti di mutuo a tasso variabile, con la possibilità di stipulare appunto al tasso dal tasso BCE, con la particolarità che noi abbiamo scelto la strada di tenere in linea, come previsto, quindi con un'interpretazione diciamo così letterale, i due tassi al momento della stipula, per cui non vogliamo invitare tra virgolette il cliente a scegliere un parametro piuttosto che un altro in considerazione appunto del momento che stiamo vivendo, quindi della maggiore considerazione che si può dare al tasso BCE. Vogliamo che il cliente sia appunto libero di scegliere tra i due parametri avendo un tasso di stipula unico. Chiaro è che devono attenersi in considerazione le questioni che si dicevano, quindi del maggior costo di raccolta che si può avere dovuto al fatto che il tasso BCE non è un tasso di mercato, alla maggiore o minore stabilità che può avere l'uno o l'altro parametro. E quindi insomma queste le condizioni di partenza, poi l'importante è che in relazione al tasso prescelto si abbiano ben chiare anche quelle che potrebbero essere in futuro le conseguenze della scelta. Nicolino da Cagliari, per tornare anche sulla questione degli spread applicati con Maximilian Cellino, che ho interrotto brutalmente un attimo fa. Nicolino. Sì, buongiorno. Ci dica. Volevo porre velocemente due quesiti. Rapidissimo. Nel dicembre del 2004 ho stipulato un mutuo a tasso variabile per l'acquisto della prima casa. Sì. In questo contratto, che prevede il pagamento della rata al 31 di dicembre di ogni anno e il 30 giugno di ogni anno. Semestrale, sì? Sì, semestrale. Questa rata in realtà mi viene addebitata sul conto il 2 di gennaio. Volevo sapere, questo era il primo quesito, se rientravo nel decreto anticrisi. Il secondo quesito è questo: nel contratto è scritto che il tasso variabile è costituito da uno spread dello 0,75 più una parte variabile legata all'Euribor a 6 mesi. Solo oggi mi sono reso conto che lo spread è passato dallo 0,75 all'1,5, Volevo chiedere se era corretto l'atteggiamento della banca. Nicolino, a meno che non ci sia una clausola nel suo contratto secondo la quale magari c'era uno spread favorevole riconosciuto nella fase iniziale del mutuo e poi in qualche punto del suo contratto c'è però questo passaggio, questo aumento. Maximilian, l'ultima, abbiamo un minuto di tempo, ti assegno la risposta al nostro ascoltatore, ma sono temi sui quali torneremo, state tranquilli. Maximilian. Ma rapidamente sul fatto, il decreto, anzi più che altro la circolare è abbastanza chiara sul fatto che le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009, per cui se è stata pagata il 2 gennaio ed è riferita al semestre, l'ultimo semestre del 2008, dovrebbe essere valida. Comunque lei avrà due rate che andranno sotto questo decreto, ovviamente, e se non è questa sarà quella di giugno, però in generale tutti i pagamenti fatti nel 2009 dovrebbero rientrare nel decreto. Per questa questione dello spread che lui ha visto l'aumento, come la pensa? Bisogna vedere il contratto, leggere attentamente il contratto, perché è chiaro che se il contratto dice che lo spread sarà sempre lo 0,75 dovrà rimanere lo 0,75. No, tra l'altro nel 2004 era molto conveniente lo 0,75, per cui io immagino che potesse essere solamente una condizione di partenza temporanea, non lo so, ho questo dubbio. Però magari invito il nostro ascoltatore a scriverci, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma state tranquilli, come vi dicevo, noi su questo tema ritorniamo praticamente tutte le settimane. Devo ringraziare rapidamente Luciana Ambrosone, Alessandra Pissinis e Maximilian Cellino per essere stati con noi. Ringrazio anche Valeria Coffaro e Gaia Romani per la collaborazione in redazione e anche per la parte di Soldi e Dintorni la mattina presto alle 8:15 in diretta qui a Radio 24. Peter Bescapene, assistenza tecnica. Noi ritorniamo lunedì, buon fine settimana a tutti.